nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, ben ritrovati, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Avete passato una buona estate? Io spero proprio di sì, ma abbiamo continuato a sentirci anche quest'estate nel meglio di Nessuna è Perfetta ogni mattina dal lunedì al venerdì. Eccoci di nuovo invece di domenica e come sempre lancia in resta contro il multitasking che... se ci ha dato tregua durante l'estate, e non è detto che sia successo, comunque adesso ricomincia a impossessarci di noi, ci comincia a divorare più o meno voracemente. Ricordiamocelo e ricordatevi anche che non siamo soltanto noi qui a Nessuna è Perfetta a sostenerlo. Il multitasking è una fregatura. Una cosa che invece non annoia e preoccupa è la campagna sul Fertility Day promossa dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Il 22 settembre, lo sapete, si svolgerà questa giornata che vuole celebrare la fertilità. Il Ministro Lorenzin ha avuto questa idea, che è stata poi approvata dal Consiglio dei Ministri del 28 luglio scorso, per sottolineare quella che è un'emergenza. L'Italia, lo sapete, è un paese vecchio. Il tasso di infertilità da noi è attorno al 30%, questo era il dato del 2014, e secondo gli ultimi dati Istat c'è una media di 1,37 figli per donna e un'età media al parto di 31,5 anni. Le italiane sono tra le europee che fanno meno figli. Peggio di noi stanno soltanto in Grecia, e non è un caso forse che stiano messe così due nazioni, due paesi dove c'è un'altissima disoccupazione giovanile e una certa stagnazione economica. Allora, per capirci, giusto o no che il ministro Lorenzin abbia voluto sottolineare questi dati invitando a prenderne coscienza? E soprattutto, giusto o no che molti le abbiano risposto intanto che la campagna pubblicitaria era un po' brutale, e secondo non si fanno figli perché non c'è una visione, non c'è speranza nel futuro e non ci sono posti di lavoro? Ecco, del Fertility Day, del problema della denatalità italiana e di tutti i problemi ad essi collegati, voglio proprio sapere cosa pensa l'agente provocatore di questa settimana. Benvenuto e buona domenica Marco Lillo, vice direttore del Fatto Quotidiano e scrittore di libri di successo. Allora, Marco, se le donne italiane fanno figli tardi o spesso non li fanno, è perché vivono una sindrome di Peter Pan, pensano di rimanere indefinitamente giovani, sono un po' egoiste, insomma, o c'è un problema anche legato all'incertezza, all'insicurezza del futuro? Sicuramente c'è un problema legato all'incertezza del futuro. Io mi permetto di aggiungere qualcosa alla tua domanda. Un po' anche nella campagna ormai celebre del Fertility Day lasciata dal ministro Beatrice Lorenzin c'era lo stesso punto di vista della tua domanda, cioè le donne sono il problema, e quindi c'era la questione della clessidra sulla pancia delle donne. Io aggiungerei gli uomini, cioè se c'è un Peter Pan non a caso è maschio, ecco, non voglio arrivare a degli eccessi, ma insomma la clessidra forse non andava messa soltanto sulla pancia della donna ma anche da qualche altra parte. Ecco, detto questo, da un punto di vista invece dell'aspetto positivo è che si parla finalmente di quello che secondo me è il problema dell'Italia in questo momento, dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista proprio economico. La crisi demografica nella quale ci troviamo in pieno e che potrebbe peggiorare in futuro, secondo me non è uno dei problemi, ma è il problema principale, che non è al centro dell'attenzione di nessuno. E il fatto che Beatrice Lorenzin abbia in qualche modo sfidato anche con questa campagna, ripeto, secondo me nelle forme sbagliata, però ha acceso un faro su una questione. Cioè, parliamo di tante stupidaggini, ma parliamo di cose serie, e questa lo è senz'altro, no? Questa lo è sicuramente. Il quotidiano Repubblica ha dedicato, mi pare, 3 pagine al problema, con tutte le cifre, con tutti i problemi, i confronti con l'estero. Non penso lo avrebbe fatto se non ci fosse stata questa idea della giornata. Ora però, da quando ho memoria, e sicuramente da quando faccio la giornalista, il tema della denatalità e della scarsa propensione delle coppie italiane a riprodursi è un tema sul tappeto. Negli anni 50-60 la Democrazia Cristiana aveva una visione della donna che doveva essere madre e moglie, quindi non ci sono stati incentivi di nessun tipo a far sì che le donne potessero lavorare e fare figli, così come invece fanno da 50 anni in Francia. Ma mi chiedo, e lo chiedo al giornalista politico, perché anche dopo, anche negli anni 70, anche dopo le campagne per il divorzio, anche negli anni 80, 90 e anche ora, c'è stata una disastrosa, diciamo, distrazione rispetto alle politiche a favore delle famiglie, dalla detassazione per chi ha 2 figli alla annosissima, mi vergogno persino a pronunciarla, questione degli asili nido. Ne parlo da quando avevo 18 anni. Sicuramente il problema, secondo me, è l'arretratezza culturale e il fatto che questa battaglia è stata lasciata nelle mani solo e soltanto dei cattolici, solo e soltanto dei cattolici oltranzisti. La battaglia del Movimento per la Vita, no? È un classico della Democrazia Cristiana di destra, diciamo, degli anni 70-80. Quello che invece non si è compreso, secondo me, è che questo tipo di battaglia ha bisogno quasi di più dei laici che dei cattolici. Cioè, voglio dire, i due problemi, quello della battaglia culturale per portare le coppie a credere nel futuro di più e quindi a fare più figli, perché è un bene non soltanto per loro, ma è un bene per l'intera società, deve andare di pari passo con un supporto da parte dello Stato, con appunto tutto quello che tu dicevi, gli asili nido, una politica fiscale che favorisce i nuclei familiari. Le scuole elementari finiscono alle 13 da noi, e una donna che lavora dove trova la possibilità di far fare al figlio anche i compiti, eccetera? O lo lascia da solo, e spesso succede, o lo scarica sui nonni, ma non sempre i nonni ci sono, oppure paga una babysitter, con tutte le conseguenze anche come dire di insicurezza su come un figlio viene educato in quelle ore, no? Questo è certo. Io quello che sostengo è che bisogna fare tantissimo su questo fronte, e basta fare un giro nei paesi del nord Europa, in Francia, dove dopo il calo della natalità che c'è stato esattamente come in Italia, a seguito, diciamo, dell'emancipazione della donna, ma dagli anni 60 in poi in Francia hanno stabilito una politica per le famiglie, quindi, e non a caso poi è risalito certo, lentamente, ma è risalito anche per effetto delle coppie di origine extracomunitaria, però sicuramente anche perché le native francesi fanno più figli le coppie native. Ora, questo è un aspetto e va sottolineato. L'altro aspetto, secondo me, è anche che non bisogna sottovalutare la cultura generale, che viene influenzata pesantemente dai messaggi pubblicitari, dai messaggi commerciali. Oggi ci sono molti più messaggi in televisione, nella società, a favore appunto del consumo immediato per se stessi, piuttosto che di messaggi che spingano qualcuno invece a spendere soldi per un aperitivo in più, a mettere da parte qualcosa per poi guarda poter costruire una famiglia. Un tema sul quale mi interessa moltissimo sentire l'opinione dei nostri ascoltatori, quindi nel salutarti e nel ringraziarti per essere stato con noi, invito chi ci segue a scriveteci a nessunaeperfetta@radio24.it e fateci sapere se la pensate come Marco Lillo. In mezzo a tutto questo questa polemica sul Fertility Day c'entra anche un po' di lavoro che è stato fatto, diciamo, di manipolazione dei desideri che sono stati fatti in questi anni per indurre le giovani coppie a essere molto più autocentrate, insomma, diceva Marco Lillo, meno aperitivi e più riflessioni sul futuro. Grazie Marco Lillo per essere stato grazie con noi e buona domenica. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24 e come sempre questo è il momento della nostra Sunday Girl. E chi può essere la Sunday Girl di questa domenica in cui parliamo di lavoro e bambini e di come non sempre voglia di fare bambini si concilia con voglia di rimanere a lavorare o di mantenere o di trovarselo un lavoro? E parliamo di tutto questo con una che sta lavorando a meno di 2 settimane dal parto perché dice no, io davanti alla TV mi annoio. La nostra Sunday Girl è Giorgia Meloni, prossima mamma di una bambina. Quindi di una bambina. Buongiorno, buona domenica. Maria, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buona domenica. Intanto una domanda a bruciapelo, ma credo anche legata al fatto che non è un segreto che lei sia mamma, un tempo si sarebbe detto primipara attempata, no? È la prima figlia e diciamo oltre i 30 anni. Ecco, 40 io, insomma, diciamoci la verità, poi sono bassa e quindi sono sempre piccola, ma non sono più giovane. Ecco, prima figlia a 39 anni, sì. Si è sentita offesa dalla campagna pubblicitaria voluta dal ministro Lorenzin? Francamente no, devo dire la verità, nel senso che non giudico lo sviluppo perché effettivamente si poteva fare meglio, ma io penso che il principio della campagna non sia sbagliato, penso che fare informazione in un tempo come questo in cui noi ci consideriamo, voglio dire, giovani all'infinito, sì. E non lo siamo, che ci piaccia oppure no, non ci sia niente di male nel ricordare che insomma se hai la possibilità, se hai la voglia, e questo insomma è tutto l'altro tema che però va affrontato, è meglio prima che dopo. Io lo dico perché insomma io chiaramente sono stata fortunata perché a un certo punto insomma ho trovato la persona giusta nel momento giusto, però ho anche tante amiche insomma più o meno della mia età, un po' più grandi di me, che forse non hanno dato a questa questione la dovuta attenzione quando potevano e oggi si accorgono di essere arrivate troppo tardi e se ne pentono. Quindi sempre nel campo, rimanendo sempre nel campo della libertà delle persone, che viva Dio fa parte, certo, della nostra civiltà, io penso che una corretta informazione su questi temi non sia offensiva. Un punto è quello dell'informazione, perché è vero che si tende a rinviare la riflessione sul diventare madre o non diventare madri e parleremo tra un minuto di tutte le difficoltà connesse al dopo che il figlio si è avuto, però prima si tende a rinviare anche perché si vive una condizione, uomini e donne, da Peter Pan più o meno inconsapevoli. Allora, una campagna che è stata molto criticata perché è stata considerata brutale, ma che ha avuto comunque il merito di sollevare la questione. Si può bocciare acriticamente? Insomma, la campagna era brutta e per questo non andava fatta così? Qualcuno dice che le campagne pubblicitarie riescono, se riescono a far parlare, sì, indipendentemente dal fatto che siano belle o brutte, questo voglio dire, gente come Oliviero Toscani, per dire, no, sì, potrebbe fare ore e ore di lezione. Dopodiché si è detto che appunto la campagna era offensiva nei confronti delle donne perché c'era un'immagine con la clessidra, no, sul che pancione, dice la bellezza, sì, non ha età, sì, la fertilità sì, e che quindi era offensiva perché le donne conoscono molto bene il loro orologio biologico. Posso dire la verità, non è vero, cioè noi viviamo in una società nella quale ci si considera giovani ad libitum, sì. Senza proprio soluzione. Cioè, c'è gente che nel mondo accademico è considerata giovane a 55 anni, sì. Ok? Sì. E quindi, come giustamente si ricordava, noi viviamo, rischiamo, la mia generazione, le generazioni anche insomma leggermente più giovani tendono a vivere in questa condizione di eterno Peter Pan sul piano filosofico, per cui rimandi sempre questa maturazione, no? Io l'ho visto su di me, cioè io anche, diciamo così, fino a un poco tempo fa consideravo di avere ancora tantissimo tempo per mettere al mondo un bambino, e invece purtroppo devi fare i conti con il fatto che più vai avanti e più puoi incappare, però insomma sì. Il calcolo delle probabilità nella scienza ha un valore, puoi incappare in alcune problematiche, per esempio il rischio di perdere la prima gravidanza entro i 3 mesi sopra i 30 anni aumenta sensibilmente quando tu vai a fare la diagnosi. La diagnosi, appunto, la miocentesi, sì. La villocentesi, io ho scelto di non farla perché dopo, diciamo, la soglia dei 40 anni il rischio di abortività legato a queste pratiche è molto alto, l'1%, 1% per una gravidanza è tantissimo. Quindi senta, voglio dire, sono cose che però tu scopri quando poi ci arrivi. Allora io penso che, ripeto, fare informazione su questo sia giusto e sia una cosa che può essere utile, perché poi tu, diciamo, tu sei stato messo nella condizione di scegliere, poi hai fatto le tue scelte, ma almeno non te la potrai prendere, diciamo, con appunto la società o il governo, chi non fa una corretta informazione su questo tema, perché la è corretta stata informazione ministro. C'è. No? Lei è stata ministro, sì. È stata ministro per i giovani. Ha qualcosa da rimproverare a se stessa e ai governi di centrodestra che hanno fatto così poco per rendere semplicemente più praticabile l'ipotesi di mantenersi un lavoro e di avere un bambino? Perché in Italia una larga percentuale, abbiamo dato i dati prima e continueremo a parlarne, di donne quando arrivano al secondo figlio mollano il lavoro perché semplicemente non reggono la possibilità di gestire tutte e due, e l'intero stipendio se ne andrebbe, ammesso che si trovi poi una brava nanny, come si dice, una brava ragazza che ti aiuti a crescerli, ma se ne andrebbe solo per loro. Ha qualcosa da rimproverarsi lei come ex ministro? C'è qualcosa che la politica si può rimproverare, e forse anche io posso rimproverarmi qualcosa, anche se devo dire la verità, Maria. Nel mio piccolo diciamo ho tentato di fare del mio meglio. Cito, io ho depositato la prima proposta di legge organica sul tema dell'incentivo alla natalità e del sostegno alla maternità, perché voglio dire, noi finora abbiamo parlato della questione culturale, no? Poi c'è però c'è una questione pratica che economica. È molto più seria e che è anche più seria rispetto alle critiche che viene mossa al ministro Lorenzin, no? Cioè tu puoi fare tutte le campagne che vuoi, dopodiché se uno non è fisicamente nella condizione di fare un figlio perché perdi il posto di lavoro, non c'hai una casa, insomma, no? Diventa certo. Tutto molto difficile. Su questo il governo Renzi purtroppo latita. Ma l'Italia in generale, diciamo, fa molto poco. Noi spendiamo per queste tematiche circa la metà di quello che si spende nella media europea di prodotto interno lordo. Io ho depositato la prima proposta di legge organica da questo punto di vista che ricalcava un po' il meccanismo francese. La Francia è la nazione in Europa che ha una delle legislazioni più giovani famiglie con 3 bambini perché non pagano perché praticamente niente figlio, tasse. Il terzo figlio ti conviene perché certo. Non paghi più tasse. Esatto. Che è esattamente la proposta come l'avevo copiata tra virgolette per certi versi, mettendola sul nostro ordinamento, e l'ho depositata nel 2006. Ero vicepresidente della Camera. Dopodiché da ministro della gioventù ho tentato, benché chiaramente fosse un ministero senza portafogli, quindi con risorse molto limitate, sì. Però una delle cose che noi facemmo, per esempio, era aprire un fondo di garanzia per l'accesso al mutuo delle giovani coppie di precari, cioè noi garantivamo il mutuo di quelli a cui le banche non danno il mutuo perché hanno dei contratti di lavoro a tempo determinato. Le posso fare una domanda? Ma perché tutto questo parlare di natalità bassa? Nel 2005 c'erano 554.000 bambini, nel 2015 è stato battuto ogni record negativo. Ecco, com'è che con tutto questo parlare del fatto che l'Italia è un paese vecchio e i paesi vecchi ovviamente non sono competitivi, poi nessun governo fa davvero quello che fanno in Francia. Oddio, e lei ci crede, qualcuno, lei ci crede qualcuno, che Matteo Renzi non sapesse niente di questa, di questa campagna? Qualcuno ci ha provato, perché ripeto, Maria, io nel mio piccolo 50 milioni di euro perché i precari potessero comunque avere un mutuo da banca per comprarsi casa l'avevo investito, poi è arrivato, sì, il governo Monti e l'ha tolto. Voglio dire, sono anche scelte che si fanno. Avevamo fatto un altro provvedimento sempre con i soldi di un ministero senza portafoglio, che erano miracolosamente sfuggiti alla mannaia di Tremonti, per cui si dava un incentivo a chi assumeva le ragazze madri, cioè abbiamo tentato di fare delle cose per dire guarda che se scegli di mettere al mondo un bambino, anche se sei precario, anche se sei famiglia monogenitoriale, lo Stato ti dà una mano perché riconosce il valore di quello che stai facendo. Poi arrivano gli altri governi e si danno altre priorità. Questo è uno dei limiti, perché la Francia ha invertito i dati sulla natalità nella misura in cui sono 30 anni che fa la stessa politica, certo, indipendentemente ci sono politiche dal mutare dei governi. Però torno a chiedere com'è che allora si fa un gran parlare ma poi concretamente non si fa, e questa campagna, che quantomeno ha avuto il merito di sollevare la cosa, però è stata immediatamente scaricata dal Premier. Vabbè, questo non mi stupisce, perché Renzi mette la faccia solo sulle cose che funzionano, no? Insomma, è un po' come su tutte le cose sulle quali c'è polemica, lui tende a scaricare su qualcun altro, le cose che vanno bene tende ad andare lì a fare la fotografia, anche quando uno vince, che ne so, i campionati di tennis, lui prende parte, va però, a New York a fare la foto. Non si riesce, dopodiché, non si riesce a fare niente, altro non che si parole. A fare niente, cioè, asili non ce ne sono, tasse che si possano scaricare non ce ne sono, ma perché? Perché o meglio, perché vige il presentismo, perché questo tema della natalità, che è un tema che noi pagheremo malissimo nel medio e lungo termine, cioè noi avremo il contraccolpo drammatico di questi dati sulla natalità attorno al 2050, quando il 35% della popolazione italiana avrà più di 65 anni. Quanti anni avrà lei, Giorgia Meloni, nel 2050? Nel 2050? Sì. Beh, adesso ne ho 39, non sono un fenomeno in matematica, sì. Siamo nel 2016, quindi insomma, diciamo che sarà grandina mia figlia. Ecco, quando sarà grandina mia figlia, noi avremo il problema che abbiamo molta più gente da mantenere in buona sostanza di quanta ce ne sia che lavora per mantenerla, che è il vero tema, perché non ti regge il sistema di welfare. Però questo problema non è un problema che Renzi ha, come qualunque altro governo, da qui a 5 anni, è un problema che si sviluppa da qui a 50 anni. Per affrontare i problemi che si sviluppano da qui a 50 anni ci vuole un po' di senso della nazione e ci vuole visione, ed è ben, esatto, per questo che noi oggi ci occupiamo di questo. E io ringrazio Giorgia Meloni per essere stata con noi. Una domanda che non è legata a una visione da qui a 50 anni, come dovrebbe essere, come dire, utile pensare per chi fa politica, ma all'oggi, al day by day, previsioni sul Campidoglio? Che cosa succederà alla sindaca, alla prima sindaca di Roma, la sua competitor? Previsioni non ne faccio perché insomma non sono in grado di farne. Io spero che diciamo riescano ad assestarsi. Parliamoci chiaro, Maria, i 5 Stelle a Roma hanno vinto in maniera proprio chiara, a mani basse si direbbe, hanno il diritto e il dovere di governare. La Raggi qualche giorno fa ha detto che lei vuole governare per 5 anni e il problema è che ci sfugge quando intenda cominciare a farlo. Io spero che comincino a governare più che dirci quando finiscono, perché li sento parlare di poteri forti, di aggressione, che sono circondati, però se andiamo a vedere quello che è successo nelle ultime settimane, se sono tutti problemi loro interni, adesso, cioè non c'è nessuno che li sta aggredendo da fuori. Adesso vediamo quello che sapranno fare, come superare questo momento. Bene, grazie Giorgia Meloni, in bocca al lupo e ci risentiamo tra qualche settimana, come minimo. Sì, volentieri, come minimo. Volentieri, crepi il lupo. Buona domenica. Grazie, altrettanto. Nessuna è perfetta. È il momento della mail della settimana. Vi ricordo che tutti i vostri problemi legati al mondo del lavoro possono essere oggetto della nostra puntata. Scriveteci a nessunaeperfetta@radio24.it o commentate con noi questa puntata su Twitter usando l'hashtag nessunaeperfetta. Martina ha lo stesso problema che hanno tantissime trentenni, e il tema che è stato sollevato poi con la campagna campagna sul Fertility Day. Questo è quello che ci scrive. Facile dire che i figli si devono fare da giovani. Io ho 33 anni e non ho un contratto stabile. Non voglio avere figli, e non perché sia egoista o irresponsabile o immatura, ma perché devo pensare al mio futuro e perché vorrei avere un diritto alla carriera. Lavoro tanto e oggi non sarei in grado di offrire a un figlio le stesse possibilità di amore che ho ricevuto io. Forse non lo sapete, ma ai colloqui di lavoro si va senza fede e si finge di essere donne senza cuore e senza ormoni, perché se sei una donna senza figli hai qualche possibilità di trovarlo il lavoro, ma se fai capire che vuoi una famiglia te lo scordi. Martina. Vi presento subito gli esperti che mi aiuteranno a affrontare un tema complesso, e sono la professoressa Alessandra Graziottin, direttrice del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica dell'Ospedale San Raffaele, coautrice con Valeria Cudini di Mamme a 40 anni. Buona domenica, professoressa Graziottin. Buona domenica a tutti, grazie mille. E l'ingegner Roger Abravanel, saggista, editorialista del Corriere della Sera, un grande sostenitore del lavoro delle donne, che è tra l'altro ha contribuito a questo tema col libro Meritocrazia, quattro proposte concrete per valorizzare il talento e rendere il nostro paese più ricco e più giusto. Allora, io partirei da Roger Abravanel per la questione carriera e poi andrei subito dalla professoressa Graziottin. Lei in Meritocrazia, ingegnere, dipinge un quadro difficile per le donne italiane. Sono anni che si sa che gestire famiglia e lavoro in Italia è complicatissimo, anche perché mancano i sostegni economici e quelli di asili, eccetera. Ha visto cambiare qualcosa in questi ultimi anni? Moltissimo, moltissimo. Meritocrazia l'ho scritto 10 anni fa, pubblicato 8 anni fa, ho cominciato a sollevare questo tema della carriera nel mondo delle aziende, delle donne, soprattutto nei consigli di amministrazione. Allora la situazione era drammatica, 5% di donne nei consigli, quasi tutti mogli e figlie degli imprenditori. Oggi siamo a 22%, siamo vicini al record, grazie a questo sforzo che c'è stato, un po' questa legge. Io avevo fatto una proposta un po' diversa, però le famose quote rosa. L'idea delle quote rosa chiaramente non è permanente, quando si è fatto un primo sforzo bisogna toglierli, però oggi abbiamo moltissime donne nel consiglio e soprattutto cominciamo ad avere donne anche nel management. Siamo in ritardo, siamo in enorme ritardo, ma ci stiamo muovendo con grande velocità e quindi io sono molto positivo. Tornando alla campagna Fertility, professoressa Graziottin, ha fatto molto discutere, no, l'immagine della clessidra a posto del pancione. È vero che diventare madre a 30 anni è un conto e diventare madre a 40 è molto più complicato e molto più rischioso? Assolutamente sì, e infatti io ritengo che questo Fertility Day sia nato da ottime intenzioni, anche se poi i contenuti sono molto discutibili e certamente da migliorare. Il punto è che la donna italiana è una donna che ha un concetto del tempo della fertilità svincolato dalla realtà. Le posso dire che nella mia esperienza come ginecologa e tutti i ginecologi con cui mi confronto abbiamo questa esperienza tutti i giorni, le donne disperate perché 35, 38, 40 o più non riescono ad avere figli, la donna e il partner si dicono: la mia fertilità poteva finire prima di 40 anni, ma nessuno me l'aveva detto. Il fumo danneggia le tube, danneggia la fertilità, mi distrugge le ovaie e mi anticipa la menopausa? Ma nessuno me l'aveva detto. Ma chi mi aveva mai detto che l'infezione della clamidia che avevo avuto a 20 anni mi aveva chiuso le tube? E poi, ma scusate, poi ci fate vedere tutte queste stare in copertina che fanno figli a 50-55, uno pensa che è normale. Perché loro sì? Perché sono ricche e io no? Allora è una questione di reddito o una questione biologica? Ma poi scusate, si allunga la vita, io pensavo che si allungasse anche la fertilità. I maschi, ma chi li guarda, chi li visita? Cioè, diciamoci che uno dei fattori di infertilità, perché tra l'altro poi questo Fertility Day rivolto alle donne, i maschi, certo, noi avevamo prima la visita di leva, che aveva perlomeno un merito, ossia di sottoporre a una visita gratuita tutti i giovani maschi d'Italia. E che cosa vedevamo? Il 18%, mica l'1%, il 18% aveva uno o più fattori che possono ledere la fertilità dell'uomo, a cominciare dal varicocele, che sono queste varici, certo, del testicolo. articolo. Allora io dico Fertility Day, ma cominciamo a dire delle cose concrete. Il Ministero della Salute predisponga un servizio, una visita gratuita in tutte le scuole ai maschi tra i 16 e i 18 anni. Abbiamo una società di andrologia in Italia molto attiva, di medicina sessuale pure, con degli androgeni molto bravi endocrinologi. Ridiamo ai giovani maschi quella par condicio che invece oggi non hanno, perché certo, tutto il discorso dei consultori è declinato al femminile e non al maschile, diciamolo. Ed è giusto che lo dica ginecologa donna, attenda però anche all'altra metà del cielo, diamo anche a loro la possibilità di una diagnosi. Certo. Diciamo che tutta una serie di attività dal fumo in poi non danneggia solo l'ovaio, danneggia anche il testicolo, per dire. Quindi cominciamo a fare delle azioni in protezione alla fertilità, una informazione che non va a parlare di prestigio della maternità, ma per favore, stiamo parlando di gioia, di piacere di essere genitori, certo, di condividere un progetto di vita. Roger Abravanel, ma se le cose sono migliorate per i consigli di amministrazione, possiamo dire che sono migliorate per le donne che guadagnano uno stipendio normale e che hanno o vogliono avere dei figli? Perché io ho l'impressione che invece per la media non è migliorato granché. Gli asili nido non ci sono, sono pochi. Le scuole elementari, che è una cosa fondamentale per l'equilibrio delle donne, le scuole medie finiscono alle 13, e una donna che non può permettersi un tutor per i propri figli al pomeriggio, a chi li scarica? Quindi la mia domanda è, in questo modo, come ci racconta l'Istat, tra qualche anno i giovani in Italia saranno cosa rarissima, perché semplicemente non ce ne saranno più abbastanza, non si faranno più abbastanza figli? No, ma scusa, infatti io sono un po' confuso dalla discussione, perché io sono completamente d'accordo. Il problema del hardware, perché succede prima, non è un problema di fertilità. Cioè, intanto non confondiamo il fatto che abbiamo, diciamo, meno figli in Italia e in tante altre che sono anche maschi, e questo, c'è un problema demografico colossale che ha a che fare con quello che dice lei, che sono il fatto che non abbiamo abbastanza, il fatto sociale, non biologico né fisiologico. Dopodiché è ancora vero che in Italia siamo molto indietro, adesso non passiamo, anche per le donne che fanno carriera, ma anche per le donne che possono lavorare. Quello che io cercavo di dare è un tono di ottimismo che vivo io, perché il mondo del lavoro del XXI secolo è un mondo del lavoro completamente diverso dal XX. La copertina dell'Economist lo chiama il secolo delle donne, e il sesso debole sarà quello dei maschi, perché stiamo andando verso una società di servizi. Non ci vogliono soltanto più i muscoli, ci vuole la capacità di ragionare. Il punto è, ingegnere, se queste donne vorranno sempre riprodursi. In altri paesi sì, ma in Italia forse per ora meno. Ma quella, la ragione per la quale succede, è vero, io però sono ottimista, perché sto vedendo intanto un cambiamento sulla possibilità di fare carriera, e dall'altro lato sto vedendo anche che il mondo del lavoro sta cambiando. Guardate, io sono laureato in ingegneria molti anni fa, e c'erano 3 donne nella mia matricola su 1000 maschi. Io sono andato a parlare al Politecnico, alla mia ex università, e c'erano più donne che maschi, perché una volta c'erano le professioni femminili, che sono i notai, i magistrati, sì, le cose, poi sono i maschili, gli ingegneri. Non è più così. Bisogna andare a guardare il mondo del lavoro che sta cambiando, il mondo dell'istruzione sta cambiando, e cerchiamo di dare anche segnali positivi, perché se no poi cosa succede? Che la donna si chiama fuori. Mi chiamo fuori perché non posso fare niente, perché ho tutti questi problemi. Invece io conosco delle donne fantastiche, giovani, che si sono reinventati il loro futuro, che si sono allontanate da casa, che hanno scelto una formazione. Il mio ultimo libro è La ricreazione è finita, scegliere la scuola, trovare il lavoro. Faccio capire come i giovani, e soprattutto le donne, che sono capaci di sfruttare questo momento, scegliendo la scuola giusta, il modo giusto di lavorare, fanno benissimo. È un sacco di storie meravigliose di donne. Bene, verrà spesso qui a Radio 24, nessuna è perfetta, a raccontarcele. In chiusura, professoressa Graziottin, che cosa possiamo suggerire a Martina e ad altre coetanee che per il momento non vogliono diventare mamme, ma che magari tra un anno, tra 2 anni, quando si saranno consolidate nella loro vita affettiva e professionale, ci penseranno. Come ci si prende cura in vista di voler diventare madri? Allora, innanzitutto con una protezione importante della propria salute, che parte rapidissimamente dal chiedere intanto a che età sono andati in menopausa la nonna, la mamma o le zie. Perché se c'è familiarità per menopausa precoce o anticipata, noi dobbiamo sapere che la qualità degli ovociti è ridotta già 10 anni prima dell'ultima mestruazione. Se questo fosse il caso, si fa un dosaggio di un ormone molto importante, antimulleriano, AMH, che costa niente, si dosa nel sangue, e si vede la riserva. Se la donna è in riserva, se ha la possibilità di anticipare la stagione della maternità, bene, se no si fa una crioconservazione, cioè andiamo a proteggere questa fertilità. Poi grande attenzione al fumo, che è un grande distruttore di ovociti. Pensate che a 30 anni una ragazza che fumi dall'età di 20 anni, da 10 sigarette in più, ha un ovaio che ha un'età biologica come se ne avesse 40, anche se fa la fecondazione assistita. Queste sono cose da dire. Abbiamo familiarità per i fibromi? Attenzione, quell'utero è più vulnerabile. Oggi abbiamo delle cure che ne rallentano la crescita, che li fanno ridurre, ma se la ragazza mi arriva con un fibroma di 8 centimetri, capiamo che le chance sono diverse. Certo. Attenzione alle malattie autoimmuni, dico la più frequente, la celiachia. Nessuno dice, o pochi dicono a queste ragazze, che la celiachia comporta, o meglio, è espressione di un sistema immunitario che sbaglia bersaglio e mi attacca alla parete dell'intestino. Ma quando il mio sistema immunitario sbaglia bersaglio, mi colpisce poi l'ovaio, la tiroide, ed ecco che io ho accanto a una celiachia una menopausa precoce da distruzione del patrimonio vocitario. Professoressa Graziottin, io le sono molto grata per aver acceso questo warning. Sono convinta che sarà occasione di ulteriore approfondimento qui a Nessuna Perfetta, e intanto appunto segnalo che queste sono cose serie alle quali spesso le nostre figlie, le coetanee delle nostre figlie, insomma le trentenni, non pensano. Ringrazio moltissimo Roger Abravanel e Alessandra Graziottini, i nostri esperti di questa domenica, e spero che tornino presto qui a Nessuna Perfetta. Buona domenica. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta... Nessuna è perfetta. Eccoci di nuovo a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Avete sentito il parere dei due esperti, e è il momento del coach, che questa settimana è il nostro Roberto D'Incau, headhunter e capo di Lang & Partners. Buona domenica Roberto. Buona domenica Maria, buona domenica agli ascoltatori e ascoltatrici. Martina, la nostra ascoltatrice, pone una questione che è comune a tante trentenni. Lei ne ha 33 di anni e dice: io vorrei pure cominciare a pensare a dei figli, ma non ho un contratto stabile, fisso. Come faccio a programmarmi una famiglia se non ho la sicurezza di avere un lavoro, non dico tra un anno, ma nemmeno tra 6 mesi? Che cosa le puoi dire da esperto di dinamiche del lavoro quale sei? Guarda, le posso dire, allora, in realtà il tema esiste, e io trovo che anche questo polverone che è stato sollevato in questi giorni sul tema del Fertility Day pone in luce la mia idea su questo tema è questo qua, cioè che da un lato noi abbiamo una visione ancora molto sacrale della maternità in Italia, dall'altra però, a differenza di altri paesi, uno tra tutti la Francia, che su questo è molto più avanzato di noi, invece non diamo i supporti appunto alle trentenni perché si sentano tranquille di fare un figlio. Allora, partiamo un presupposto che secondo me va proprio condiviso sia con i candidati sia con le aziende: fare figli è normale, cioè è normale che una donna, e anche un uomo, mi ci metto, sì, anch'io, un uomo di questa età faccia figli, quindi inutile continuare a fare finta che voglio dire a 30 anni la gente non abbia voglia di fare figli. La voglia di fare figli c'è, fare figli è normale, la gestione, voglio dire, poi andiamo sul concreto, però la gestione di questi figli deve essere una gestione condivisa e che comprenda anche da un lato la partecipazione di coppia, cioè i figli, certo, si fanno in due, quindi il padre deve essere coinvolto, ma venga anche in qualche modo supportata dalle misure di cui parliamo da 50 anni, cioè gli asili, la detassazione, eccetera. Ora io però vorrei capire una cosa: quando si fa un colloquio di lavoro, e nel tuo caso ci sono aziende che ti chiedono di valutare delle persone, il tema figli torna? Compare mai? O è una cosa che sta lì su una nuvola e nessuno ne parla? Allora, il tema figli è un po' come il tema diversity, nel senso, sì, adesso sono due temi, cioè sta lì e resta inespresso. Io penso che sia un'ottima occasione questa per riflettere sul fatto, invece, questo per anche noi recruiter. Allora, la domanda, lei vuole fare figli prossimamente, è una domanda molto banale e anche illegale, illegale, sì, a livello europeo, per questo bisogna dirlo. Quindi se vi capita di sentire un recruiter che vi fa delle domande o che vi discrimina perché dite che volete figli, beh, insomma, questo è davvero passibile di essere, cioè è una cosa discriminatoria. Però ecco, bisogna fare finta e smettere di far finta che i figli non esistano, cioè non si capisce, ripeto, perché una donna normale che ha 33-35 anni non abbia voglia di fare figli, non possa fare figli e non possa gestire degnamente questi figli anche con la vita lavorativa. Quindi diciamo che vanno un po' sistemati dei tasselli. Da un lato, tu hai toccato, Maria, un tema importantissimo, quello della suddivisione dei compiti tra uomini e donne in Italia, dove siamo veramente dei fanalini di coda, ecco, questo lo devo dire. Però anche dall'altra azienda, cioè non bisogna, io voglio dire, c'è questa cattiva abitudine, qui spezzo subito una lancia, cioè il fatto che una madre che ha dei bambini piccoli probabilmente dopo un certo orario la sera vuole tornare a casa. Ecco. Però il fatto che il collega maschio stia all'ufficio fino alle 8:30 e magari perda tempo, adesso qui sono magari un po' polemico, sì, non vuol dire che è più efficiente o più efficace lavorativamente, vuol dire solo che sta perdendo tempo. Quindi voglio dire, riponiamo tutto in un'ottica magari un po' più internazionale, per cui così come i nostri colleghi inglesi alle 18, maschi e femmine, cascasse il mondo, non li trovi più in ufficio, lo dico per esperienza personale, perché io chiamavo alle 18:15 i colleghi a Londra, non trovavo nessuno, oppure le colleghe francesi, questo è interessantissimo, le colleghe d'antre francesi, il mercoledì pomeriggio, siccome la scuola francese finisce a mezzogiorno, non vanno in ufficio, e tutti noi sapevamo che le colleghe parigine mercoledì pomeriggio... E non c'era nessuna colpevolizzazione per questo. Ecco. Diciamo, benissimo, le scriveremo un'email o la chiamiamo a giovedì mattina, se è urgente le scriviamo, se no, ecco, quindi... Insomma, cominciamo anche in Italia a fare qualche piccolo passo in avanti verso la normalizzazione della maternità. Essere madri ed essere padri anche a 30 anni è normale, quindi bisogna in qualche modo se uno lo desidera, perché magari uno non lo desidera, ma se uno lo desidera... Un'ultima cosa, sì, sempre sotto il profilo del coach. Quando c'è un colloquio di lavoro e viene chiesto invece che prospettive ha? Come si vede da qui a 5 anni? Si vede sposata con dei figli, che è una cosa generica. Come bisogna rispondere? Allora, guarda, io qui, Maria, ti dico, l'anno scorso ho partecipato come consulente a questa campagna pubblicitaria che è stata fatta da un'agenzia, non faccio i nomi, e dal Ministero contro la discriminazione delle donne. Lì purtroppo queste domande subdole, tra 5 anni come si vede? Nell'ottica, noi abbiamo evidenziato proprio una prospettiva in questa campagna pubblicitaria, la prospettiva che l'uomo potesse essere mandato all'estero e la donna no. Secondo me è davvero uno stereotipo ed è profondamente legato, perché le giovani donne sono altrettanto mobili, altrettanto carrieriste, altrettanto hanno il diritto di certo, fare di pensare a un progetto professionale che le faccia crescere, certamente. Però bisogna dargli gli strumenti, perché altrimenti se le lasciamo abbandonate a loro stesse, questo non è possibile. Se no, quindi ci ritroviamo di nuovo qui tra 20 anni, esatto, a dire bla bla bla, il dato della natalità italiana a questo punto. Quindi io trovo che questa cosa, questo Fertility Day, tutti i suoi, però se non altro ci ha fatti tutti riflettere anche questa, e su anche questo queste... ovviamente siamo l'ho detto sin dall'inizio di questa puntata, non possiamo che essere d'accordo, e su questo ringrazio Roberto D'Incao, il nostro coach di questa settimana, e auguro a lui e a voi che siete stati con noi buona domenica.